Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati insieme, buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. È giunto il momento di mettere alla prova la cura e l'ordine con cui conservate le carte di casa. Riprendete in mano le copie della dichiarazione dei redditi del 2009, per la precisione quella che avete compilato nel 2010, riferita naturalmente ai redditi e alle spese sostenute l'anno precedente. Riprendete in mano tutti i vostri estratti conto di quell'anno e probabilmente, ve lo auguriamo, non succederà nulla. A meno che non risultino degli scostamenti rilevanti fra ciò che in quell'anno avete speso e quanto avete invece dichiarato di guadagnare. Come avrete capito, stiamo parlando delle modalità con cui funzionerà il nuovo reddito, lo strumento che, incrociando i dati legati a spese, movimenti dei conti correnti con le dichiarazioni dei redditi, prende di mira i grandi scostamenti, quelli che dovrebbero far supporre episodi di evasione dal fisco. Sono circa 35.000 i contribuenti inseriti nelle liste di chi verrà esaminato, individuati a partire da quegli scostamenti appunto che avrebbero superato quota 20%. A Salva Danaio torniamo a spiegare il funzionamento di questo sistema, spiegandovi anche come fare per dimostrare la vostra correttezza nel caso in cui il sospetto dell'Agenzia delle Entrate si fosse concentrato proprio su di voi, ma fosse un sospetto che voi ritenete del tutto infondato. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Naturalmente, visto che queste liste sono pronte, ne ha parlato diffusamente anche ieri Il Sole 24 Ore, chiaramente bisognerà anche capire come l'ufficio di riferimento dell'Agenzia delle Entrate vi verrà a comunicare che siete al centro di questo monitoraggio, di questa indagine, perché anche questo è un aspetto fondamentale. Se non volete intervenire in diretta, ci potete chiamare al 349-238-6666, potete scriverci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, potete interagire con noi sul nostro profilo Facebook salvadanaio Radio 24, sul nostro profilo anche su Twitter @salvadanaio24. Marco Lombardo ha subito preparato un hashtag che naturalmente è redditometro. Allora, prima di tutto questo, naturalmente, sarebbe anche carino da parte mia se vi presentassi gli ospiti che ci terranno appunto compagnia questa mattina, ci spiegheranno tutte queste novità. Sergio Pellegrino, commercialista in Trieste, consulente fiscale per Il Sole 24 Ore. Dottor Pellegrino, buongiorno e bentornato. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E bentornato naturalmente anche al nostro consulente tributario di riferimento su questi temi, anche in questo caso un altro esperto per Il Sole 24 Ore, Nicola Forte, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, cominciate subito a prenotare i vostri interventi, io intanto vi racconto che cosa sta succedendo in borsa. Abbiamo avuto anche un'asta tedesca. Poco fa la Germania ha venduto titoli di Stato a 5 anni per 3 miliardi e 350 milioni di euro, con il tasso in rialzo ai massimi da febbraio. Insomma, qualche cosina sta cambiando anche per la Germania, le cui aste da qualche mese a questa parte, da molti mesi, si risolvono quasi sempre con rendimenti sempre più rasoterra. Pensate che però il titolo di Stato a 5 anni la Germania lo colloca sul mercato allo 0,5% dallo 0,38%. Siamo ben lontani naturalmente dai livelli italiani, ma in ogni caso forse una tendenza alla normalizzazione si comincia ad intraprendere anche in Germania. Domani è la giornata delle banche centrali, Bank of England e soprattutto Banca Centrale Europea, e aspettiamo con grande ansia le indicazioni di Mario Draghi sul proseguimento della politica monetaria europea. C'è chi addirittura si aspetterebbe un altro taglio dei tassi di interesse, che sarebbe molto utile alle imprese, alle banche europee. Vedremo appunto cosa succederà. Nel frattempo questa mattina un'altra bella batosta l'ha avuta Tokyo, che ha segnato meno 3,83%. Le indicazioni del premier Shinzo Abe sulla sua Abenomics non sono piaciute, non hanno convinto, e il listino, già al centro di un forti movimenti di volatilità stamattina, ha avuto appunto un nuovo ribasso molto forte. Sono in negativo le altre piazze europee. Parigi meno 0,7%, Francoforte meno 0,58%, Londra meno 0,87% e Milano ancora riesce a tenere il territorio positivo, ma lo ha ridimensionato. Milano è arrivata a guadagnare più di mezzo punto stamattina, adesso segna più 0,20%. Corre Monte dei Paschi, più 3,21%, cambio di governance per la fondazione e per la stessa banca, come chiesto dal Ministero dell'Economia. Stamattina sono state approvate le modifiche allo statuto, il titolo corre, evidentemente questa Circostanza appunto piace agli investitori, Ansaldo più 2,64%, Pirelli al centro di un riassetto azionario, di un riassetto societario molto complicato appunto, di cui leggete stamattina su tutti i giornali, il titolo corre del 2%, escono i soci Malacalza dalla holding Canfin, la società di riferimento, la holding di riferimento è stata riammessa alle contrattazioni poco fa e subisce una battuta d'arresto molto forte, meno 7,36%. In negativo invece tra il FTSE MIB, tra i titoli principali del paniere, appunto la Popolare di Milano meno 2, Mediolanum meno 1,7, di Assorin meno 1,12%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, al redditometro che è in arrivo per 35.000 contribuenti. Discusso, criticato, temuto. Il nuovo redditometro ha già fatto molto parlare di sé ed è ormai pronto a partire. L'obiettivo della nuova versione di questo strumento in mano all'Agenzia delle Entrate è ormai chiaro ai più. Stanare gli evasori fiscali, mettendo a confronto i dati sulle dichiarazioni dei redditi con quelli delle spese effettuate. Nonostante i dubbi mossi sull'effettiva utilità di questo sistema di controllo, gli ultimi recentissimi sono arrivati dalla Corte dei Conti, i primi controlli dovrebbero partire a breve, concentrandosi su una lista di contribuenti, stimata in circa 35.000 unità, la cui situazione metterebbe in evidenza scostamenti superiori al 20%. Sarà quindi bene mettere mano e ordine alle carte di casa, con un'attenzione particolare agli estratti conto, alle ricevute, agli scontrini relativi alle spese del 2009 e quindi alla dichiarazione dei redditi compilata nel 2010. È infatti questo il periodo preso in esame. In caso di controllo, spetta infatti al contribuente l'onere della prova, dimostrare che lo scostamento non è dovuto ad un comportamento scorretto, ad esempio perché è stata ereditata una somma o ricevuto incomodato un immobile o un'auto. E allora, per interagire con noi, per intervenire in diretta questa mattina sui temi del redditometro, che so vi indispettiscono sempre molto, adesso a prescindere da nuovi commenti sul fatto che anche questo strumento addirittura dalla Corte dei Conti è stato giudicato non proprio appropriato, se non addirittura inutile, adesso quello che noi invece vogliamo fare stamattina è spiegarvi come funzionerà, qualora doveste essere, qualora siate appunto oggetto di un controllo di questo tipo, di un accertamento di questo tipo, cosa dovrete fare. Poi, se la legislazione andrà sulla strada di una modifica delle modalità di funzionamento di questo strumento appunto di accertamento fiscale, ne parleremo molto volentieri. Adesso, a prescindere da tutte le polemiche, noi prendiamo atto di come è fatto lo strumento e vediamo appunto come funziona e soprattutto come ci si può difendere, perché appunto l'aspetto più conflittuale con i contribuenti è proprio quello relativo all'inversione dell'onere della prova, che non ha avuto grandissime modifiche rispetto alla predisposizione appunto iniziale. Prima di tutto, Sergio Pellegrino, da quello che capisco sono gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, quindi insomma è su scala regionale che si stanno predisponendo queste liste di contribuenti che sarebbero sotto la lente appunto di ingrandimento dell'amministrazione fiscale e sui quali si sta effettuando questo focus sull'anno d'imposta 2009, quindi ogni regione ha il suo, come dire, contributo, no, rispetto all'amministrazione centrale. Sì, allora innanzitutto le liste selettive vengono predisposte però a livello centrale, quindi a livello centrale, poi ovviamente dalle informazioni che noi abbiamo, perché sono ovviamente tutte attività interne all'amministrazione finanziaria, a livello centrale sono state elaborate queste liste di contribuenti. Probabilmente l'elaborazione è stata fatta a livello di nucleo familiare sulla base dei dati risultanti all'amministrazione, poi questo elenco di nominativi viene passato agli uffici periferici, quindi ad ogni agenzia di entrate a livello locale, che va anche sulla base delle evidenze che ci sono a livello locale poi a interagire con i contribuenti prescenti, quindi presumibilmente scremando in parte la lista originaria, e quindi questa scrematura verrà fatta da parte degli uffici locali, che poi andranno ad inviare un questionario, come avveniva già in passato, ai contribuenti, evidenziando la situazione conosciuta e già insomma richiedendo informazioni in merito e eventuali dimostrazioni di disponibilità, certo, di redditi legalmente non dichiarati o insomma altre situazioni di questo tipo. Ecco, allora comunque magari la lista viene fatta a livello centrale sulla base di informazioni che arrivano però appunto da livello periferico. dalle dichiarazioni, nel senso certo. che è semplice, la creazione della lista prende i dati che ci sono nell'ambito dell'anagrafe tributaria, quindi quelli delle spese effettivamente sostenute da parte dei contribuenti nell'anagrafe tributaria, ci sono moltissimi dati di questo tipo, vengono inseriti i dati Istat relativi appunto alla presunzione che c'è nell'ambito del decreto attuativo del redditometro e questo viene confrontato con il reddito dichiarato da parte del contribuente. Allora, intanto non vi dico quanti messaggi stanno già arrivando, nella miglior tradizione di Salvadanaio quando si dedica a questo argomento chiaramente le domande sono della più ampia natura e tutti ci fanno l'elenco delle operazioni effettuate e in qualche maniera anche dei guadagni percepiti e chiedono se in base a questi dati potranno essere oggetto ad un accertamento, potranno essere appunto passivi di un accertamento appunto tramite lo strumento del redditometro. Allora, non è che sarà così a pioggia, Nicola Forte, ecco, magari facciamo un esempio per addentrarci ancora più concretamente nell'argomento. Che tipo di profilo potrà avere uno di questi 35.000 contribuenti ai quali saranno chieste delle spiegazioni, perché poi non è che arriva nessuno con la pistola in casa, chiaramente? Dalle prime notizie che abbiamo lo scostamento dovrà essere di rilevante entità, già la legge prevede sostanzialmente… Come Befera peraltro aveva detto, no? Prenderemo di mira all'inizio soprattutto i casi più clamorosi, poi certo. Spieghiamo che cos'è questo scostamento. Allora, lo scostamento vuol dire che è ammessa una soglia di tolleranza tra il reddito che io dichiaro e le spese che ho effettuato nel corso dell'anno, cioè non è che ogni volta in cui le spese effettuate sono di poco superiore rispetto al reddito dichiarato che scatta un controllo, scatta un invito. Faccio un esempio, se io ho dichiarato un reddito di 59.000 euro e ho spese per 60.000 euro intercettate dall'anagrafe tributaria con tutto il sistema delle banche dati, è una soglia di tolleranza ammessa, occorre una divergenza nettamente maggiore. Cioè aver dichiarato 20.000 euro di reddito annuale per essere precisi e magari averne spese 80.000 e non essere totalmente in grado di giustificare queste spese. Certamente, la legge prevede uno scostamento del 20%, ma già dalle prime notizie anche di fonte giornalistica si dice addirittura che lo scostamento per la selezione di questo primo campione di 35.000 contribuenti, lo scostamento addirittura nel caso specifico potrebbe essere più alto, più largo. Questo proprio perché non si vuole sparare nel mucchio, no? Si vuole che l'azione di accertamento sia proficua, perché l'azione di accertamento costa, è un costo sociale, è un costo anche per tutti i cittadini. Forte, tra l'altro c'è già una notizia, cioè sono tante, sto già cercando di individuare le riflessioni più interessanti e i casi più interessanti degli ascoltatori che ci scrivono al 349-238-6666, a parte chi scrive come posso avere ancora gli estratti conto del 2009 quando all'epoca non c'era redditometro, per la verità c'era, perché questi strumenti di accertamento ci sono da molti anni, da decenni, il tema è che questo è nuovo e va a fare la verifica delle spese del contribuente oggetto di controllo sulla base di determinati parametri Istat, quindi ci sono delle modalità diverse, ma il redditometro c'era. Detto questo, poi uno del suo bilancio familiare non si tiene nulla, questo è un altro discorso. C'è Cristina che scrive: se per il 2009 mi sono già state richieste dall'Agenzia delle Entrate i documenti provanti le detrazioni, che evidentemente ha applicato la sua detrazione dei redditi, posso desumere che non sarò tra i fortunati che riceveranno notizie per il redditometro, quindi se si è già in qualche maniera oggetto di un accertamento, anche il nuovo redditometro potrebbe ulteriormente effettuare un altro controllo forte? E sicuramente, perché quel tipo di richiesta ha un'altra natura, è un controllo di tipo formale. Quindi non è detto che Cristina possa scamparla una seconda volta? Assolutamente, non è un profilo completamente diverso, ripeto, un controllo formale per verificare deduzioni, detrazioni, spese mediche, quindi altra finalità quella richiesta, quindi sicuramente bisogna fare ancora attenzione. Allora andiamo a rassicurare intanto tutti gli ascoltatori che conducono una vita normale, che si sono comprati una casa, magari un'auto di recente e temono che solo per aver effettuato queste operazioni riceveranno l'accertamento fiscale. Non è così, noi non abbiamo più fiato per spiegarlo. Sergio Pellegrino, mi aiuti lei, l'ascoltatore che scrive: ho acquistato due case nel 2009 usando i miei risparmi, i proventi della vendita di altri appartamenti, rischio l'accertamento? Così come ci scrive: se io semplicemente ho comprato un'auto, un altro ascoltatore, e ho speso 20.000 euro, sarò controllato? Allora, no, io voglio rassicurare. Infatti, perché qua non abbiamo più parole per farlo. Perché c'è da dire che, insomma, l'Agenzia delle Entrate ha fatto un pessimo marketing al redditometro in questi anni, nel senso che, insomma, questa nuova misura è sicuramente molto molto migliore rispetto alla precedente. Quindi io mi stupisco sempre, anche insomma, nei convegni che facciamo, che insomma tutti si scagliano contro il nuovo redditometro, senza dimenticarsi che ancora oggi potremmo ricevere nei prossimi mesi o addirittura anche il prossimo anno accertamenti basati sul vecchio redditometro per le annualità fino al 2008, e il vecchio redditometro sì che era uno strumento assolutamente rozzo e assolutamente inaccettabile. Il nuovo redditometro Sì, la gente lo percepisce come se fosse una cosa completamente nuova, arrivata negli ultimi anni, tanto per dare una batosta ulteriore alla cittadinanza già. No. Allora, quindi questo è un aspetto che va chiarito, perché appunto molti adesso criticano il nuovo redditometro, ci sono degli aspetti sicuramente che dovrebbero essere gestiti meglio da parte dell'agenzia, ma insomma il vecchio redditometro era una misura veramente inaccettabile, perché attraverso un calcolo molto rozzo, basato sulla disponibilità dei beni o dei servizi, determinava un reddito che di fatto era incontestabile o quasi da parte del contribuente. Questo nuovo redditometro si basa invece in larga misura sulle spese effettivamente sostenute da parte del contribuente. Quindi, se nel caso di specie ho comprato l'immobile e ho speso, che ne so, 500.000 euro, ma ho fatto un disinvestimento perché ne ho venduto un altro dimostrabile, non c'è certo alcun tipo di problema. Oppure ci ho messo un po' di risparmio, ho chiesto il mutuo, certo, ci possono essere tante modalità. Ma ci possono essere tante situazioni. È chiaro che dobbiamo poi partire da un dato che purtroppo è un dato che magari non accresce la mia popolarità, adesso ve lo dico, ma siamo in una situazione nella quale il 50% circa dei contribuenti dichiarano meno di 15.000 euro di reddito lordo. E l'abbiamo visto, allora, i risultati degli studi di settore. No, dicevo, abbiamo visto, ci stiamo accavallando, Pellegrino, no? Nel senso che l'abbiamo visti i dati che sono stati diffusi dal Ministero dell'Economia la scorsa settimana, provenienti appunto forse dal monitoraggio degli studi di settore, il gioielliere che guadagna meno del suo dipendente. Adesso battiamo sempre lì, però insomma le conosciamo le situazioni, per cui è chiaro che l'accertamento fiscale va fatto. Questo su questo noi proprio non abbasseremo mai la guardia. La lascio concludere, Pellegrino, poi andiamo in pausa. Ecco, quindi la scelta che doveva essere fatta in modo più chiaro era quella di legare l'accertamento soltanto alle spese effettivamente sostenute, e a quel punto sarebbe stato incontrovertibile, perché se io dichiaro 20.000 euro e spendo 100.000 euro senza riuscire a dimostrare come ho ottenuto quei fondi ulteriori, qui non siamo neanche da un punto di vista di un ragionamento presuntivo, ma siamo sostanzialmente di fronte ad un fatto certo. L'errore è stato semmai quello di andare ad introdurre il riferimento per determinate spese ai dati Istat, perché questo introduce una variabile che poi sarà gestita dagli uffici in modo disomogeneo a livello locale. Non lo so, poi, l'amministrazione fiscale desume che secondo determinate tabelle Istat la single come me spenda determinate cifre per determinate cose nel corso dell'anno, io invece magari la mia capacità di spesa la posso organizzare diversamente, però poi insomma vediamo. Il tema è che comunque ci deve essere sempre questo famoso scostamento, altrimenti nessuno ci verrà a chiedere le motivazioni per cui spendiamo in un certo modo o in un altro. Ci fermiamo adesso, siamo già andati oltre il tempo a nostra disposizione, poi andremo a Michele della provincia di Foggia, il nostro primo amico da casa che ci telefona, e poi tranquillizzeremo anche Mario, che su Twitter ci racconta che si è sposato nel 2009, chiaramente in quell'anno le sue finanze sono state un po' movimentate. Mario ha fatto bene, non si preoccupi, faccia tanti regali a sua moglie, ci sentiamo tra poco. Difendersi dai controlli del redditometro. Al contribuente spetta l'onere della prova. C'è quindi la possibilità di dimostrare che le spese effettuate nel periodo di imposta 2009, preso a riferimento, sono state sostenute con redditi acquisiti in periodi precedenti o esclusi dalla base imponibile. Un motivo in più per conservare alcuni documenti, come gli scontrini per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici, le ricevute di pagamento di viaggi, vacanze e soggiorni, i documenti che attestano il pagamento di un mutuo, anche se questo viene effettuato da terzi, ad esempio i genitori, e il pagamento di rette scolastiche e asili nido. Le ricevute di pagamento di assicurazioni su auto, moto, casa, vita, così come le ricevute delle bollette per le utenze domestiche, sono già conservate nell'anagrafe tributaria, ma possono tornare utili in caso di errori. I più meticolosi e precisi, quindi, non hanno nulla da temere. In caso contrario, potrebbe essere utile iniziare a rimettere ordine tra le carte di casa. E questo, dico io, non è utile solamente per potersi difendere qualora arrivasse un avviso di accertamento fiscale. Io credo che sia utile sempre avere un po' di ordine in casa tra la documentazione, appunto, che attesta quello che guadagniamo e quello che spendiamo. Non dico il micro scontrino del supermercato per 2 euro di spesa, ma magari quello di un po' più complesso, aver rifatto l'arredamento della casa, magari può servire che venga conservata come documentazione, o tanto altro ancora. Comunque, Nicola Forte, parto con lei proprio da questo aspetto, che è sicuramente quello che ha indispettito di più in tutto l'impianto del nuovo redditometro, cioè doversi difendere se l'amministrazione chiama e ti comunica che sei soggetto ad un accertamento fiscale. Partendo dallo spunto di Mirko su Twitter, che ci dice, anzi no, su Mirko, Mario, poi Mirko vado dopo anche a lui, che ha un altro caso interessante. Mario dice: io mi sono sposato nel 2009, quell'anno ho ricevuto probabilmente nella giornata del matrimonio maggiori entrate in contanti, perché si sa che insomma i parenti fanno quel tipo di regalo, e maggiori uscite naturalmente per organizzare la sua nuova vita familiare. Avrò possibilmente dei problemi per il redditometro? Ma io ritengo che il problema del redditometro sia essenzialmente l'applicazione con un buon grado di buon senso, scusate il gioco di parole. Marco si è sposato nell'anno, in un determinato anno, quindi se il focus, l'attenzione del fisco si dovesse concentrare proprio in quell'anno, lui non avrà certo difficoltà a dimostrare che è stato un anno particolarmente fortunato, caratterizzato da un lieto evento. Peraltro, dalle notizie che abbiamo... però dovrebbe spendere 100.000 euro e magari aver avuto entrate per 10.000, dire, quello sarebbe il caso in cui il redditometro alza il velo su questa persona. Questo è vero. Però nel momento in cui Marco dovesse aver ricevuto tanta disponibilità da parte di persone generose, è ovvio che questa maggiore disponibilità, regali, proprio perché abbiamo anche poi una normativa antiriciclaggio. Esatto, lì il tema è il contante che circola, è un altro. Esattamente, quindi se Marco ha ricevuto 1.500, 2.000, 3.000 euro, queste somme, ma per altre ragioni, devono transitare sul suo conto corrente con uno strumento tracciato. Per questo dicevo, è un discorso di buon senso, di proporzioni. Se Marco riuscirà appunto a dimostrare, ma nel momento in cui le somme fossero importanti non avrà sicuramente difficoltà a farlo tramite assegni, tramite il suo estratto conto, tramite ricevute di bonifico, quindi riuscirà a dimostrare la maggior parte, lo scostamento in questo caso si riduce di molto, ecco quindi che rientriamo in quella soglia di tolleranza che il fisco ha proprio in questi giorni in qualche modo ha detto che è disposto, diciamo, a tollerare, soprattutto nella fase iniziale, quindi ancor più rispetto alla franchigia del 20%. Allora, un paio di casi di amici che ci seguono da casa all'800 24 00 24. Poi vorrei anche sapere dai nostri interlocutori qual è la modalità con cui il fisco busserebbe alla nostra porta qualora appunto fossimo tra i 35.000 fortunati contribuenti sotto questa lente di ingrandimento, come l'ho più volte definita questa mattina. Michele dalla provincia di Foggia, intanto buongiorno. Michele, perché scomparite quando vi chiamiamo? Alberto da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Volevo chiedere ai vostri esperti questo quesito. Mio figlio nel 2009 ha venduto un appartamento perché si è trasferito in Inghilterra. Questo appartamento è stato acquistato 10 anni prima con un buon intervento da parte mia e quindi nel momento della vendita mi ha accreditato via regolare bonifico 70.000 euro. Ecco, io che chiedevo se questo fa accendere la luce rossa nell'Agenzia delle Entrate. Grazie Alberto. Allora Pellegrino, intanto l'ascoltatore ha citato la parola magica, accreditato, per cui è un'operazione intanto regolarmente tracciata, e questo è già un aspetto importante. Sulla base di che cosa Alberto dovrebbe essere controllato dal fisco con gli strumenti del redditometro? No, allora in questo caso diciamo il problema proprio non si pone, nel senso che il redditometro va a misurare uno scostamento tra le spese e il reddito dichiarato, quindi insomma qui problemi non ce ne sono, anzi se ci dovesse essere uno scostamento tra le spese e il reddito dichiarato in quell'anno, il nostro ascoltatore potrebbe giustificare questa differenza proprio sulla base di una disponibilità finanziaria correttamente non dichiarata, che deriva dalla restituzione di quello che possiamo definire un prestito fatto a suo tempo al figlio. Certo. Quindi il problema qui non si pone assolutamente, anzi potrebbe essere un elemento da utilizzare proprio per giustificare il diciamo diverso ammontare delle spese rispetto al reddito dichiarato. E poi parliamoci chiaro, queste sono veramente operazioni che sono nella quotidianità della famiglia italiana, ma ci mancherebbe pure che il fisco si metta a controllare tutti questi transiti di denaro all'interno di un nucleo familiare tra padre e figlio. Quante famiglie aiutano i figli a comprare la casa e magari quante volte i figli restituiscono con gli anni magari una parte di questi importi, per cui io veramente, sarà che sono sempre in buona fede su tutto, però voglio proprio sperare davvero che non si esasperi l'utilizzo di questo strumento su questi casi, perché comunque, a prescindere dalla mia difesa, poi apriremo un altro tipo di controllo e saremo impietosi se queste distorsioni appunto dovessero registrarsi così clamorose. Andiamo a sentire Michele dalla provincia di Foggia, che abbiamo recuperato, si era distratto. Sì. Michele, buongiorno. Buongiorno. Ci buongiorno. Dica. Pronto? Buongiorno, mi sentite? La sentiamo perfettamente, Michele, sì. Buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, io volevo chiedere, io sono libero professionista da pochi anni, da 5 anni, e non produco praticamente reddito da lavoro come libero professionista, come avvocato, però io produco reddito da capitali perché faccio il trader. Mm. Che cosa mi succede in termini di eventuale, quindi ho un reddito alto, diciamo così, fortunatamente. Però non riconducibile alla sua professione, esatto, ufficiale. Esatto, però, ufficiale come... Però insomma il trading lo fa formalmente, ufficialmente, utilizzerà delle piattaforme, un intermediario finanziario, per cui anche in questo caso è tutto regolare. Michele, la ringrazio. Allora, qui abbiamo un altro caso un po' più complesso, ibrido forse, Nicola Forte. Michele può star tranquillo, quale sarebbe il motivo per cui il redditometro potrebbe concentrarsi su di lui? Allora, può star tranquillo per quanto riguarda quella tipologia di accertamento che nota sotto il nome di accertamento sintetico, cioè che riguarda il suo reddito complessivo, perché riuscirà facilmente a dimostrare che ha una capacità di spesa che gli deriva da un'altra attività, da altri redditi dichiarati o tassati alla fonte. Questo però non esclude ovviamente che oggetto di controllo, ma questo è un altro aspetto, un altro problema, sia la sua attività professionale, il reddito di lavoro autonomo, ma qui abbiamo altri strumenti di controllo eventualmente, parlo e faccio riferimento agli studi di settore. Se lui ha lavorato per 5 anni, ha prodotto sempre perdite, anche se ricordo lo studio di settore non si concentra sul reddito ma si concentra sui compensi e soprattutto nell'ambito delle attività professionali, lo studio di settore è un modello che funziona a prestazioni, cioè va a verificare il rapporto tra le prestazioni, il compenso medio e i minimi cosiddetti provinciali. Sì. In questo caso si rischia un'altra tipologia di accertamento, sempre con obbligo però di contraddittorio, cioè ma di invitare il contribuente. Il fisco potrebbe chiedere a Michele: se in 5 anni non hai prodotto nessun reddito sulla base appunto di carattere professionale, dove hai preso magari il denaro per invece effettuare queste transazioni finanziarie, quindi lui fa trading e produce reddito da capitali, potrebbe esserci un accertamento di questo tipo? Sì, e poi bisogna vedere tutto come è partito all'origine. Certo, magari aveva, questa esatto. sua attività può derivare da risparmi accumulati nel tempo e questo potrebbe aver dato origine all'avvio di questa sua attività di trading. Benissimo, allora ci fermiamo perché adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Mirko su Twitter ci scrive: nel 2009 ho ricevuto un anticipo del fondo pensione, circa 8.000 euro, nel 7.30 del 2010 questo importo non è stato dichiarato, allora ci chiede se corre dei rischi. Chi verrà colpito dai controlli del redditometro? Nella prima lista inviata all'Agenzia delle Entrate e alle direzioni regionali sono presenti i contribuenti con i maggiori scostamenti fra redditi dichiarati e redditi ricostruiti in base alle spese certe. In una prima fase di contraddittorio, il contribuente può fornire la spiegazione dei fattori che hanno determinato lo scostamento, ad esempio un'eredità o il disinvestimento di somme o prestiti, dimostrando la correttezza della propria posizione. Se le giustificazioni vengono accolte, la posizione del contribuente viene archiviata. In caso contrario, si passa ad un secondo contraddittorio, in cui entrano in gioco anche le medie Istat sulle voci di spesa sconosciute al fisco. Se anche in questo secondo passaggio l'amministrazione ritiene non valide le spiegazioni del contribuente, si passa all'accertamento fiscale vero e proprio. 800 24 00 24 per tutte le vostre domande sul nuovo redditometro che diventa operativo proprio in questo periodo. Saluto Simona da Roma che ci scrive: io sono una prostituta per scelta, se il lavoro di prostituta non è legale io teoricamente non faccio reddito, ma se lo dichiaro allora lo Stato sfrutta la prostituzione. Qua abbiamo avuto un'altra simpatica declinazione sull'argomento di questa mattina, difficilmente il redditometro potrà arrivare a Simona. Sergio Pellegrino non le chiedo un commento su questo caso, le chiedo invece di spiegarci come può comportarsi, come può star tranquillo Mirko, che ha avuto l'anticipo dal fondo pensione 8.000 euro nel 2009, però non lo ha dichiarato, ma perché ha una fiscalità prelevata alla fonte il fondo pensione, quindi non andava inserita in dichiarazione dei redditi, oppure no? Assolutamente, nel senso che noi dobbiamo partire da una considerazione: ci sono molte tipologie di redditi che non debbono essere indicati in dichiarazione, quindi ad esempio anche se io ho dei dividendi da una partecipazione non qualificata non li devo indicare in dichiarazione, perché sono assoggettati già a tassazione alla fonte. È chiaro ed evidente che nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati della dichiarazione può emergere un disallineamento, ma nel momento in cui io dovessi essere selezionato per il controllo, quando riceverò il questionario andrò ad indicare la disponibilità di redditi che sono stati legalmente non dichiarati e quindi vengono ad essere considerati senza alcun tipo di problema da parte dell'ufficio. Quindi questo può proprio essere un caso nel quale la posizione viene archiviata, perché da subito dimostro che lo scostamento del reddito dichiarato deriva proprio da una particolare tipologia di tassazione. Allora, intanto, tra tutti i commenti di chi continua a guardare ancora con grande preoccupazione al redditometro, che non è nuovo, è solamente fatto in maniera diversa rispetto al passato, per cui non stiamo parlando di qualcosa che arriva da Marte in tempi recenti, altri invece che condividono il tema dell'accertamento fiscale, perché chiaramente a quanti di noi capita di notare magari vicino a noi comportamenti non proprio corretti dal punto di vista appunto del rapporto naturalmente con lo Stato, questo Stato che chiaramente è stato tante volte contestato soprattutto negli ultimi tempi, perché se lui per primo non paga, chiaramente tutti quanti ci sentiamo in diritto di comportarci nello stesso modo. Tina scrive: ci saranno pure controlli, redditometri e quant'altro, ma intanto, e qua pioveranno critiche anche su questo, idraulici, elettricisti, meccanici, muratori e tanti continuano bellamente a non rilasciare la fattura. Lo sappiamo, Tina, è per questo che noi dalla parte di Salvadanaio il redditometro lo sponsorizziamo e lo condividiamo. Chiaramente deve essere un lavoro di accertamento fiscale fatto bene, proteggendo anche il contribuente. Sentiamo Riccardo da Rimini, che è sposato con una cittadina russa. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Ci dica. Un attimo, fermo la macchina. Dunque, sì, fermi per carità. La mia signora ha attività in Russia, è cose abbastanza importanti. Mensilmente gli arrivano i dividendi che vanno dai 2.000 ai 5.000 euro. Certo. In questo periodo poi gli stanno arrivando molti soldi perché vuole acquistare una casa, ma fanno parte di queste attività. E certo. Noi abbiamo avuto difficoltà estreme ad aprire i conti in banca per farli arrivare, perché alcune banche ci hanno proprio rifiutato di aprirlo perché hanno detto non volevano problemi. E adesso abbiamo aperto in tre banche per dividere queste cose e lasciamo i soldi lì in attesa di quello che ci chiederanno, perché qualcosa succederà. Ah, lei quindi addirittura già prevenuto, insomma, dice qua non si sa mai, tanto a noi sicuramente con questa situazione un po' complessa una richiesta di accertamento ci arriverà di sicuro. Tra l'altro, da quanto ha questa attività sua moglie Riccardo, visto che stamattina ci stiamo un po' focalizzando? Lei ha l'attività da 20 anni. Quindi. Praticamente, però siamo sposati da 2 anni è venuto in Italia. Questi introiti arrivano in Italia. Sì, non è cittadino italiano, è residente in Italia, ma sono proventi da attività che sono svolte in Russia, è una catena di negozi di elettrodomestici. Certo, Riccardo, beh, allora ecco, intanto mi sembra di capire che sia un'attività totalmente documentabile, per cui però lui dice giustamente già il fatto che le banche ci abbiano con grande difficoltà aperto appunto la loro disponibilità, e lui dice già so, Nicola Forte, che qualche accertamento a carico di mia moglie appunto arriverà. Ha ragione Riccardo a preoccuparsi? Ma sono d'accordo con lei Deborah, tutta l'attività è tracciata, ci sono dei conti correnti, le somme vengono regolarmente accreditate. Ci sono dei negozi in Russia, per cui guarda che parta un emissario di Befera e vada a controllare quello che succede là. Certamente. Ma dubito che parta. E poi dobbiamo anche considerare, ecco, questo è un passaggio che manca nelle informazioni, la signora è residente anagraficamente in Italia, non so se... Non è cittadina, però non ha la cittadinanza. Non c'entra nulla. Residente in Italia, però potrebbe avere lei, non so se intestati a lei direttamente o altri soggetti, anche dei conti presso banche all'estero, e qui sotto questo profilo devo fornire al fisco italiano un altro genere di informazioni. Se io ho un conto corrente in qualsiasi paese, comunitario o non comunitario, sono residente anagraficamente in Italia, e questo conto corrente ha un saldo che supera il 31 dicembre 10.000 euro, devo dare questa indicazione al fisco italiano. Quindi c'è uno scambio di informazioni, ma direi sotto questo profilo, se mi comporto correttamente, tutto tracciato, faccio bene sicuramente a conservare la documentazione a supporto, però sarei tranquillo. Allora, intanto figuratevi se il commento che ho letto di prima della nostra ascoltatrice Tina sul fatto che molti professionisti ovviamente non rilasciano la fattura, sono arrivate tutte le controbattute inevitabilmente, e io condivido anche quello che l'ascoltatore dice: lo Stato ci dia un vantaggio fiscale nel chiedere fattura ad elettricisti, idraulici e muratori, e vedrete che le persone non pagheranno più in nero. È vero anche questo. Qua, Sergio Pellegrino, siamo nelle classiche situazioni in cui tutti hanno ragione, no? Chiudiamo un po' sull'edito. Devo chiudere tra un minuto, le lascio una conclusione, Pellegrino. Sì, no, diciamo che da questo punto di vista io non credo che ci sia una categoria di contribuenti onesti o disonesti, c'è semplicemente l'opportunità, e quindi in qualche caso, insomma, poi l'opportunità viene colta da parte dei contribuenti per non dichiarare. Certo, senta, allora qualora si solamente in 30 secondi, perché l'ho lanciata questa cosa e non l'ho detta, se io fossi uno dei 35.000 contribuenti su cui il redditometro ha acceso il faro, come mi arriva la comunicazione del fisco rapidamente, poi ci ritorneremo? Mi arriva innanzitutto un questionario al quale devo rispondere, e poi, come presumibile, le mie risposte non saranno sufficienti, avrò un invito al contraddittorio. Quindi non arriva la finanza in casa, stiamo tranquilli che non arriva niente di particolarmente invasivo nelle nostre abitazioni, qualora l'accertamento ci fosse. Per ora vi ringrazio, Pellegrino è forte, ritorneremo presto su questo tema popolarissimo tra i nostri ascoltatori. Noi intanto domani e dopodomani io vi lascio con Valeria De Rosa, buona giornata a tutti. Salva Danaio.